non ci sono più le mezze stagioni. Eccoci qui, una piccola corsa, ogni tanto succede. All'ultimo c'era l'ospite che mi faceva un po' stare sul filo del rasoio, ma è qui con me, tra poco ve la presenterò. Ma intanto, perché non ci sono più le mezze stagioni? Ogni volta ci diamo una ragione. Ecco, questo, in questo caso per esempio è positivo. Non so se avete visto questa pubblicità, che in realtà è un po' di tempo che è in televisione, aveva iniziato quel detersivo che diceva che i piatti li voleva lavare lui, però era stata una cosa un po' isolata nel tempo, purtroppo. No, invece adesso ho visto due importantissimi detersivi per bucato che insomma incentivano, diciamo, l'utilizzo di esso stesso con il bucato agli uomini, come è giusto. E ce n'è uno in particolare, inizia per D, la marca, cioè non aggiungiamo altro, dove fa vedere proprio lui, l'unico protagonista, un uomo, donne non ce ne sono, che si sporca e dopo gli consigliano: ma tu sai usare lo smacchiatore del tal detersivo in modo congruo? E lui all'inizio siamo poi invece ci prende gusto, e diciamo che finalmente anche lì un tabù, almeno con una marca, è rotto. E quindi quante volte la pubblicità può essere progressiva senza bisogno di enunciarlo e di renderlo cristallino, no? Comunque, lo sapete che lo scopo qua della mia trasmissione con voi è di ritornare alla fine di una settimana sui fatti che hanno connotato questa settimana. Ce ne sono sempre moltissimi, io tento sempre di fare una panoramica stringata, poi la farò anche questa volta, però che cosa vi è rimasto nella mente, che cosa vi ha fatto discutere in casa con i vostri parenti, familiari, con gli amici, con i colleghi, con quella cosa che proprio vi ha fatto ritornare e anche insomma partecipare in modo civile, diciamo, al nostro vivere comune, no? Il fatto di interessarsi dei fatti che ci riguardano un po' tutti mi sembra anche che connoti un certo senso civico. Comunque, bando alle ciance, il numero verde, ve lo ricordo, per intervenire e dire in libertà le vostre opinioni sui fatti della settimana è sempre quello: 800 24 00 24. Lo ripeto, 800 24 00 24. Ma oggi, signore e signori, chi c'è qui con me? Monica D'Ascenzo. La ritardataria. Me lo dico da sola. Insomma. Ma in genere sei ritardataria tu? Non me lo dire, perché poi dico, ecco, le donne, le solite ritardatarie. Io conosco uomini che arrivano l'ora e un quarto dopo l'appuntamento. Quindi però sono migliorata col tempo. Sei migliorata. Almeno Monica, arrivo in ora. Monica, la radio non è il giornale, si va puntuali. Proprio quando parte la trasmissione si parte. Poi, tra l'altro, Monica è una che ha molto a che fare con i numeri, giornalista del Sole 24 Ore, giornalista finanziaria, che ha scritto insieme a Giada Vercelli, pubblicato da Rizzoli, Donne sull'orlo di una crisi economica. La crisi economica sappiamo tutti, purtroppo, no? Quest'anno è stato veramente nero da questo punto di vista. In più mi lascia il cellulare acceso, la Monica D'Ascenzo. Pregherei immediatamente di spegnerlo, perché qua non puoi rispondere a tuo marito, figli, eccetera, eccetera, ma dobbiamo concentrarci sulle notizie della settimana e su questo tuo libro che dice, insomma, noi questa crisi la stiamo vivendo pesantemente, anche se oggi Confindustria sembra piuttosto ottimista sui giornali. L'hai spento il cellulare, vero? Spento Monica. Morto. Che si vede che Monica c'ha delle antenne un po' così captative. E, donne sull'orlo di una crisi economica, perché le donne forse in genere, quando ci sono questi specie di tsunami, no, economico, finanziario, eccetera, lo patiscono di più. Io sentivo oggi o ieri sera, forse, Renata Polverini, no, dell'UGL, donna in gamba, probabilmente sarà candidata per il PDL alle regionali del Lazio, e diceva: cerchiamo di smetterla di frasi fatte, di tante parole, tanti bla bla. Sicuramente le donne, come in altri periodi, sono quelle che stanno patendo di più e rischiano, come in altri momenti storici, dover lasciare il passo agli uomini in un momento di crisi, no, del lavoro. Però voi, tu e Giada Vercelli, vedete anche i lati positivi. Avete notato che le donne a capo delle imprese sono quelle che sono riuscite meglio a tenere un po' il timone in questo periodo, no? Non solo a capo delle imprese, è vero che le donne patiscono di più. In Italia, per esempio, oltre il 60% dei contratti, diciamo, da precari, co-pro, sono di donne e sono i primi a andare a casa. Però è anche vero che le donne hanno le risorse per reagire meglio degli altri. Faccio un solo esempio: negli Stati Uniti a fine anno è previsto che la forza lavoro femminile sia più del 50% della forza lavoro totale, cioè lavoreranno più donne che uomini. È Obama, comunque adesso al di là no, di... ma in Italia non ce la caviamo male. Se prendiamo per esempio i dati sull'imprenditoria femminile, Confartigianato ha dimostrato che quest'anno nel 2009, quindi un anno di recessione, le imprese femminili sono cresciute del 2%, quelle invece degli uomini sono calate di più del 2%. E perché? Quindi, tu lo dici, lo posso dire esplicitamente, perché le donne sono più brave. No, non diciamo che le donne sono più brave, hanno altre capacità rispetto agli uomini, sia per questioni diciamo fisiologiche, sia per questioni culturali, di crescita, di educazione. E nei momenti di crisi probabilmente reggono di più lo stress, possiamo dire così. Dobbiamo essere sempre più forti comunque. E poi rischiano meno. Adesso se ne è fatto, noi l'abbiamo scritto anche sul Sole 24 Perché Ore questa rischiano meno? Ah, nel senso settimana. Che sono meno speculative in quel sono senso. Sono meno speculative, non si sa se è una questione di testosterone o meno. Noi ci siamo tornati questa settimana su hanno un più piedi nuovo per studio. Terra e sono più responsabili in questo esatto, senso. Esatto, cioè cercano di rischiare meno anche quando si può guadagnare di più. Quindi questo poi le pone al riparo da certe speculazioni che abbiamo visto che sono costate molto. Però il libro è anche molto più semplice, non parla di alta finanza o di imprenditoria, parla anche a chi deve cercare lavoro in questo momento, chi deve gestire il budget familiare, chi vuole investire per il proprio figlio, magari per pagare l'università in un futuro. Bene, quindi questo è Donne sull'oro di una crisi economica. Adesso invece ci spostiamo tra poco sulle notizie della settimana. Ci sono già degli ascoltatori in linea, numero verde 800 24 00 24, ma sapete che ci vuole sempre ogni tanto anche un punto di vista extraterrestre. Riflessioni da Marte. Bisogna dire che da quassù, dal pianeta rosso, osservando la Terra, ci si accorge di quante emergenziali priorità affannano gli esseri umani. No? Per esempio, volendo anche solo guardare alle pressanti impellenze italiche, ce ne sono un numero davvero cospicuo. Una su tutte, l'ipotesi di eliminare la pausa pranzo. Nulla di più urgente e improrogabilmente prioritario. Gli italiani del resto negli ultimi anni, lo dicono le stesse statistiche, sono diventati piuttosto rotondi. E quasi per una straordinaria congiuntura esistenziale astrale, è stato proprio un ministro che Rotondi è di cognome a prendersi la briga di occuparsi di questa emergenza. Italiani così, saltando il pranzo, che come ben sanno tutti i nutrizionisti è tanto salutare, no? Saltare a pie pari un pasto. Bene, in questo modo, dicevo, gli italiani si sfinano un tantino, che non guasta mai, e diventano anche più produttivi, visto che taluni sono anche un po' fannulloni. Se no, come la contrastiamo noi, la concorrenza della Cina? Ci avete fatto caso che in effetti i cinesi sono tutti piuttosto smilzi? E così, come il presidente americano, il giorno del ringraziamento grazie a un tacchino, saltando il pranzo gli italiani potranno graziare migliaia di maiali, che altrimenti sarebbero finiti nel panino sotto forma di prosciutto, gamberetti che si salverebbero dalle insalate miste, tortiglioni, maccheroni rigati, eccetera. Forse ispirati da questa proposta rotondiana, i commercianti di Settimo Torinese hanno deciso di entrare nel Guinness dei primati facendo l'involtino di cavolo più lungo del mondo. Che se ci pensate bene, messo per lungo sull'Italia, potrebbe forse sfamare la penisola intera in caso di eliminazione della pausa pranzo. Insomma, uno straordinario involtino di cavolo per una proposta del cavolo. A proposito, ma secondo voi, con cosa giocava Bruno Vespa da piccolo? Forse è cresciuto troppo in fretta, viene da pensare, dal momento che ancora adesso, nel suo studio di Porta a Porta, si ostina ad armeggiare sempre più spesso con la casetta della Barbie. Direi di cominciare a sentire Carlo da Montevarchi. Carlo! Buongiorno! Buongiorno! Buon pomeriggio! Ecco la prima voce. Carlo, che cosa ti frulla per la mente? Cosa vorresti tornare? Dunque, ho sentito, non ricordo, fra ieri sera o stamattina. Sì. Uno sfortunato italiano che è stato messo fuori di galera, insomma è stato scarcerato dopo un anno e mezzo. Sì. Era accusato di aver ucciso una povera ragazza su Di Como. Ah sì, quella che era finita nel lago di Como e ritrovata dopo tre anni con la sua macchina. Allora, questo ha fatto un anno e mezzo di galera gratis, va bene? Nessuno gli chiede la scusa. Nessuno immagino lo risarcirà, lui ha la vita rovinata, è stato coperto sicuramente di sterco, di escrementi umani e non di peggio, va bene, perché incappare in una, come dire, in una vicenda giudiziaria così gratuitamente, senza nessuna colpa, rovina comunque l'esistenza. Però, ecco. Allora, poi io mi domando, dico, questa è la giustizia italiana. E questo è solo un caso, e questo è solo un caso perché sappiamo quanti ne succedono in questi casi, gente sbattuta dentro così senza motivo. Insomma, voglio dire, si è ribaltato il concetto che dice tutti innocenti fino a prova contraria, si fa così, tutti colpevoli fino a che non si dimostra di essere innocenti. La stampa in questo, mi dispiace dire, ha le sue colpe, perché si strombazza tanto quando qualcuno viene inquisito, viene indagato, poi quando viene prosciolto se ne parla un attimino, due righe così nei giornali, due paroline sull'etere e basta. Io adesso, Carlo, non ricordo benissimo tutti gli elementi della vicenda, ho sentito anch'io che è finito questo processo, mi pare forse per insufficienza di prove, perché ancora l'avvocato di parte civile... Non lo so se fosse proprio così, comunque in ogni caso... Ecco. Io ho sentito dire così a un telegiornale o un giornale radio, perché non ha come si fa? In ogni caso, perché si può... Se è vero che si è tutti innocenti fino a prova contraria, perché si sbatte in galera la gente? Bisogna fare questa riforma, bisogna mettere dentro soltanto quando c'è la flagranza di reato, quando ci sono prove inconfutabili e soltanto per omicidio e pochissimi altri reati, altrimenti qui ci pende su tutti noi 56-60 milioni di italiani. Avere questa spada di Damocle. Io non voglio dare manco tutta la colpa ai magistrati, sono le leggi che regolano il sistema giudiziario italiano, vanno cambiate quelle. Grazie Carlo, ti ringrazio, anche comincia a sentirsi un po' disturbato, ma è arrivato chiaro il pensiero di Carlo. E invece vorrei sentire Samuel da Firenze. Buongiorno. Buongiorno Samuel, tu sei in viaggio? Sì, sto guidando. Allora, io soltanto volevo parlarle, saluto. Senti, non è che stai fumando anche per caso, Samuel? No. Sai che no. C'è una proposta della Lega che sono 250 euro più, non so se si toglie la patente per un 5 punti. 5 punti, no, bravo, è informata. Non bevo. Non fumo, non bevo. Bravo, allora, soltanto voglio dire questo. Io ieri ho sentito nella Santara che aveva un deputato della Lega che stava facendo questa legge, la proposta di legge che noi extracomunitari per andare a casa di integrazione aveva soltanto un limite. Sempre se prendono con noi extracomunitari tutto quello di che... Di dove sei, Samuel, tu? Succede. Io sono dal Perù. Del Perù, sì. Sì. Però allora, hai sentito la buona notizia che è stata ritirata oggi dalla stessa Lega, forse perché era una proposta indecente. Sì, non si sa. Infatti, perché questa è una legge discriminatoria. Chiamiamolo razzismo nascosto in discriminazione. Perché soltanto guardano a noi non come una risorsa umana per portare avanti l'Italia, sino non guardano a noi soltanto nel fatto che le cattive extracomunitarie lo fanno, i mettono a tutti noi nello stesso sacco, e questo non va bene. Invece di lavorare più che altro l'integrazione, per integrarci bene, per voler bene ancora l'Italia, distruggono questo fatto. Da quanti anni sei in Italia, Samuel? Io sono da cinque anni. Da cinque anni, a parte questa proposta, come ti sei trovato finora nei rapporti con le italiane e gli italiani? Io la città di Firenze, essendo una città diciamo un po' chiusa dei toscani, no? Mi sono trovato bene, questo no, senz'altro. Però più che altro io voglio dire, qua la tolleranza, la mancanza di informazione, più che altro l'ignoranza della persona su di noi fa tante cose che non fa male a noi, capito? No, diciamo perché che se un lavoratore è integrato, una lavoratrice, sono integrati, pagano anche loro i loro contributi, le tasse eccetera, mi sembra che abbiano gli stessi diritti. Io pago tutto, no? Io pago le tasse, io pago, però questo non è tutto il fatto, capito? Il fatto vero è l'integrazione vera, capito? L'integrazione vera, che vuol dire l'integrazione vera? Essere come voi, avere tutto il diritto, diciamo, al voto, a scegliere quello che noi vogliamo. Certo, anche però, se Samuel, va sempre detto che deve essere una specie di processo reciproco questo, perché tu lo sento, certo, che desideri stare in Italia, voler bene in Italia. Io stavo in America, io lavoravo anche in America, perché io faccio l'operaio, no? Io faccio l'operaio qua, però io ho una laurea di scienze politiche nel mio paese. Cioè mi trovo male perché poi non lo posso fare qua. A volte sì, non sono validi i titoli, no? Non hanno... Samuel, ci sì, dobbiamo... Allora, però, sì. Soltanto le voleva dire questo per sì. chiudere, tanto salutarle anche a lei. Sì. Mi dispiace questo fatto che sempre qualunque partito che vuole stare bene con il popolo si prenda della persona più debole che siamo noi. Debole nel senso che non abbiamo una forma di farci sentire delle cose buone che facciamo. Per esempio, non si parla di noi che noi contribuiamo alla pensione degli anziani, perché siamo tanti che lavoriamo e paghiamo le tasse. Ah, sì, tanti badanti, tanti colf. Samuel, tante cose che noi facciamo. No, no, ma questo no. Per fortuna in parte mi sembra che sempre più venga riconosciuto, poi ogni tanto vengono fuori queste idee qui, però insomma è un processo questo inarrestabile. Speriamo che da entrambe le parti, da chi è già italiano, diciamo, a chi lo sta diventando, le cose possano migliorare sempre di più. Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre insieme a voi, Roberta Giordano, sino alle 15 possiamo parlare in libertà dei fatti della settimana. Mia opinionista estemporanea, come uso dire, di oggi è Monica D'Ascenzo, giornalista del Sole 24 Ore, che ha scritto insieme a Giada Vercelli Donne sull'orlo di una crisi economica. E l'ascoltatore di prima, Samuel, extracomunitario peruviano, che diceva, insomma, sono qui da 5 anni in Italia, questa proposta della Lega di limitare la cassa integrazione per i cittadini stranieri, insomma, la riteneva ingiusta, però lo avvertito, ecco, che notizia di stamattina che questa proposta è stata ritirata. Monica, tu, dal tuo punto di vista, l'emendamento è stato ritirato, l'emendamento alla finanziaria, come ricordavi tu. La cosa che fa un po' sorridere è che da contraltare alla Lega fa l'alleato politico Fini, che vorrebbe concedere invece la cittadinanza piena. È incredibile questa cosa, infatti, vero? No, in Italia sicuramente ci sono delle cose da rivedere. Io ho amiche che sono nate in Italia da genitori, diciamo così, extracomunitari serbi, che erano in Italia per lavoro, hanno vissuto in Italia 8 anni, non hanno la cittadinanza italiana, perché se non vivi in Italia 10 anni di fila dopo esserci nato non hai la cittadinanza. Anche dopo esserci nato? Sì, invece negli Stati Uniti, che è molto più difficile, in cui è un paese in cui è molto più difficile ottenere il permesso per andare a lavorare, se tu nasci lì hai il passaporto americano pur essendo figlia di immigrati. No, la cosa divertente, divertente insomma, ironicamente, contraltare, parla, sì, che volevo citare è la campagna che si sta facendo per razzismo contro un amministratore delegato di Vodafone, vero? Esatto, io non volevo dire la società, ma, ma no, diciamo così, la in Sudafrica completa, sì. Esistono questi manifesti, è italiano tra l'altro, esatto, questo amministratore delegato, che non nominiamo, è stato anche l'amministratore delegato di una delle più grandi editorie, gruppi editoriali italiani. E ci sono questi manifesti con cercasi per razzismo, ma farla wanted, non sono praticamente. Sì, ma non sono estracomunitari, quelli di colore, no, diciamo, ma sono il partito di destra bianco che è appunto contro vuole, di lui, perché sembra cercare che lui favorisca, no, i, esatto, neri invece. Esatto, quindi è buffa questa cosa, razzismo ha visto il contrario, a poli opposti. Allora, ritorniamo tra pochissimo su le voci degli ascoltatori, dell'ascoltatrice, che così commentiamo insieme le notizie della settimana. C'è Enrica da Viterbo, poi c'è Giuseppe da Roma, Gioia, credo, da Pavia. Abbiate ancora un po' di pazienza, perché per chi non avesse ancora in mente magari una concentrazione di notizie di questa settimana, provo come al solito a fare la mia panoramica stringata, che se devo prendere un lungo respiro. Allora, l'appello di Napolitano, no, che ha detto ieri, in questo clima così teso, cerchiamo un po' tra le istituzioni di fare in modo che non ci sia contrasto, conflitti, perché l'aveva detto sulla scia delle parole di Berlusconi, che aveva parlato giovedì di toghe sovversive e del rischio di guerra civile. Berlusconi che aveva detto, il Presidente del Consiglio, proprio in questi giorni, chi non è d'accordo con me, con il partito, fuori dal partito. Poi notizia di oggi, che la Procura di Firenze smentisce la notizia che aveva dato Libero questa settimana, cioè che Berlusconi e Dell'Utri, dicono i procuratori di Firenze, non sono indagati in questa inchiesta di mafia delle stragi degli anni 90. Poi la richiesta di Veronica Lario, quasi ex moglie insomma del Presidente del Consiglio, che ha chiesto 3 milioni e mezzo al mese. E poi il processo Mills, che riprende a Milano, in cui è coinvolto anche il Presidente del Consiglio, ma dovrebbe riprendere il 4 dicembre con una corte di sole donne. Però l'avvocato del Presidente del Consiglio, Ghedini, ha già detto che ci sarà il legittimo impedimento, perché è preso con altri impegni, credo, il Consiglio dei Ministri. Poi abbiamo parlato dell'emendamento alla finanziaria della Lega, proposta di mettere un tetto alla cassa integrazione per gli extracomunitari, ma abbiamo detto che è stato ritirato, quindi la questione è per il momento, anche se ne volete poi parlare, per carità. La pillola abortiva, la RU486, tante polemiche, lo sapete, è diffusa un po' in tutta Europa, in buona parte del mondo. In Italia ci sono state delle forti frizioni. Ieri c'è stato il parere del ministro delle politiche sociali e della salute Sacconi, che ha detto d'accordo, ma solo durante, insomma, un ricovero ospedaliero. Poi il nuovo caso a luci rosse, perché qui in Italia ormai si diceva, ha detto lo stesso Mussolini, prima si usavano le pallottole negli anni 70, adesso a colpi di video a luci rosse, notizia del giornale che aveva detto, insomma, che c'è in giro questo video che ritrarrebbe l'onorevole Alessandra Mussolini del PDL in atteggiamenti piuttosto scabrosi con Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. Lei ha smentito con molta ironia. Poi il rischio, no, di Dubai World, il colosso immobiliare pubblico di Dubai, che con una cifra incredibile di debiti e le borse che hanno rischiato grosso, però hanno superato per fortuna la difficoltà. Confindustria, vi dicevo prima, che è ottimista e dice che l'economia in Italia è pronta a ripartire a fine anno. Per quanto riguarda l'ambiente, in vista di Copenaghen, di questo vertice sull'ambiente, la Cina, che per fortuna comincia a dire vabbè, cercheremo di ridurre anche noi le nostre emissioni nocive di anidride carbonica, eccetera, così come anche Obama, speriamo che siano impegni veri e non parole. Napolitano, che è intervenuto sulla violenza alle donne, perché c'è stata questa settimana la giornata mondiale contro la violenza alle donne, ha detto: è davvero un'emergenza su scala mondiale. Sapete, a proposito di mutilazioni genitali in tantissimi paesi, matrimoni forzati, stupri anche in Italia, non è che solo nei paesi del terzo mondo. È emerso di nuovo la ricerca secondo la quale la violenza nei confronti delle donne da parte di uomini è la prima causa di morte delle donne in Europa, più del cancro. A te sembra ammissibile, Monica, una cosa del genere? No, non mi sembra assolutamente ammissibile. La cosa che fa ancora più paura è che i dati dicevano che soltanto una su 10 poi alla fine denuncia oppure quindi chiede quanti aiuto. Quanti sono i casi? Infatti è stata importantissima la giornata, soprattutto per far capire a queste donne che non sono da sole. Anche se è vero, c'è la giornata, se ne parla un po' e poi diventa sempre un fatto fisiologico, come un sottofondo normale, come sia la musichetta di sottofondo che neanche magari si sente più, è ritornata una cosa normale, insomma, che le donne continuino nel mondo e anche nella civilizzata Europa e anche in Italia, insomma, a morire di violenza. Ogni settimana in Italia 2-3 casi di mariti o ex mariti che uccidono mogli, ex mogli o fidanzati, ex fidanzati. Tra l'altro, su questo mi diceva un giudice che sono aumentati negli ultimi anni esponenzialmente i casi di violenza di mariti o compagni o ex compagni nei confronti delle donne. Stanno aumentando, forse perché proprio le donne in qualche modo si stanno affrancando rispetto al loro compagno, e per questo è una frustrazione, esatto, crea delle reazioni che a volte appunto esplodono nella violenza. È pazzesco. Poi la riforma della giustizia, le tante polemiche sul processo breve in questi giorni, la ANM, Associazione Nazionale dei Magistrati, che dice le procure sono vuote, paralisi, siamo troppo in sottorganico. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, che ha respinto la richiesta di arresto nei confronti di Cosentino, coordinatore del PDL in Campania e sottosegretario all'economia. Gli sviluppi del caso Marrazzo, si è capito che probabilmente anche il pusher delle trans Gianguerino Cafasso, anche lui non è morto di infarto, ma lo hanno drogato fino alla morte. E poi Berlusconi che rassicura Obama sull'Afghanistan, ci sarà più impegno dell'Italia, un ministro tedesco che si è dimesso per la strage di civili proprio in Afghanistan, ha lasciato quindi il suo incarico. La strage terribile delle Filippine, strage di politici e di giornalisti, soprattutto donne, anche in questo caso è la cosa veramente ancora più aberrante, che tutte queste donne sono state violentate prima di essere uccise, cioè le hanno rapite per una faida tra politici e lo sfregio anche finale prima, veramente delle cose. E poi l'attentato in Russia, il disastro del treno Nevsky Express con circa 30 morti. In Rai Antonio Di Bella è il nuovo direttore di Rai 3. Le unioni civili, c'è stata questa proposta dell'onorevole Germontani del PDL, che avrebbe dovuto presentare in questi giorni questa proposta di legge, ma pare che il suo partito gliel'abbia impedito. E poi, insomma, sono tantissime le altre notizie. Tina Turner, se vogliamo essere più leggeri, che fa 70 anni, veramente una leonessa. E poi questo incidente misterioso di Tiger Woods, il campionissimo di golf mondiale, che fino a ieri sera sembrava avesse avuto un incidente stradale, invece sembrerebbe che abbia avuto una colluttazione con la moglie. Per una volta ce l'ha peggio lui, la questione chissà anche qua, no? Strani. Beh, questo sarebbe un caso proprio particolare, sì, anche perché lui, essendo un atleta, aveva tutte le possibilità per difendersi. Certo, ma sei un uomo un po' particolare. Sentiamo allora Enrica da Viterbo, e grazie per la pazienza, scusatemi che sono tante le cose da dire. Enrica. Ciao Salve, buonasera a tutti. Buonasera a te, Erika. Da Viterbo si comincia a dire buonasera a quest'ora, eh? Da noi sì, da noi dopo le due si dice buonasera. Anche in Toscana. Mentre a Milano si dice buonasera, sì, e buongiorno fino alle 6. Perché noi la luce ce l'abbiamo per così poco, che finché insomma c'è uno spiraglio cerchiamo. Un ottimo sole, devo dire, oggi. Meno è pallido, ma ci accontentiamo, Enrica. Allora, qual è la tua notizia? Beh, le notizie che avete con riassunto poi sono talmente tante che... Sto prendendo ancora fiato. Però l'unica cosa che volevo dire io è l'ultima uscita del ministro Rotondi, che mi sembra, cioè questo è un paese in cui ognuno la mattina si alza e dice qualcosa, tira giù, pontifica e poi dopo andiamo avanti a discussioni senza che poi alla fine non arriva mai una soluzione. Volevo dire a Rotondi che praticamente facendo mangiare tutti alle 3, alle 4 del pomeriggio, allora sì che ci avremmo grossi problemi d'obesità. No, probabilmente non vorrebbe far proprio mangiare nella pausa pranzo. Ecco, ancora meglio. Quella è la sua considerate proposta. Che se voi, io non sono un nutrizionista, però considerate che il pasto più leggero va fatto la sera. Così facendo noi ci ridurremmo la sera a mangiarci il primo, il secondo e il contorno, perché al giorno mangeremo uno snack. Vedo che sei informata, Enrica, effettivamente. No, dico, il pasto principale deve essere più o meno a mezzogiorno, tra colazione e mezzogiorno, e poi la sera più leggeri, se uno naturalmente si è nutrito in modo sufficiente. Enrica, c'hai la freccia sotto sotto? Sì, si sente, vero? Mi dai il ritmo così. Va bene, grazie, questo, Enrica. Sarebbe un bel po' da dire. Comunque, buon lavoro a tutti. Grazie a te, grazie della pazienza. Borica, prima di lasciarci per questa pausa, volevo dire che io l'ho sperimentata a Londra, perché dove lavoravo si facevano 9 ore senza pausa pranzo. Quindi, avendola sperimentata sulla mia pelle, vi dico che forse non è il caso, perché dopo un po' si perde la lucidità. Però volevo dire un'altra cosa. Che e potresti anche magari attaccare il primo collega, esatto, che ti mette in invasione tra le ruote, si sa mai. Volevo dire un'altra cosa che forse è passata un po' sotto silenzio e che non si è notata, perché questa della pausa pranzo è sacrosanta, è come diciamo battaglia per mantenerla, ma c'è un'altra revisione alla normativa che difende di andare in bagno, no, le donne incinte. No. Non so se l'hai sentita questa settimana. Sì, ho visto solo vogliono rendere diciamo così facoltativo il lavoro notturno. In questo momento è assolutamente vietato alle donne che aspettano un bambino lavorare di notte. E invece Elio Vito ha detto che il governo intende renderlo facoltativo, cioè la donna che accetta di fare il lavoro notturno pur essendo incinta può farlo. Ora, siccome sappiamo che ci sono tante donne che hanno firmato lettere in bianco per il licenziamento quando rimangono incinte, tante che sono precarie, forse questo... Poi si parla di politiche della famiglia. Potremmo anche proporre di far direttamente partorire le donne sulle scrivanie, per esempio noi, come vedi, abbiamo estremamente ampie anche qua in studio. Non ci sono più le mezze stagioni. E siamo sempre qui con voi, Roberta Giordano, fino alle 15 per commentare. Avete visto quanta varietà di notizie, a parte quelle che vi ho sintetizzato io, ma anche la mia opinionista estemporanea di oggi, la giornalista del Sole 24 Ore, Monica D'Ascenzo, che ha scritto con Giada Vercelli Donne sull'orlo di una crisi economica. Ma le vostre voci di ascoltatrici e ascoltatori, devo dire, ne avete tirate fuori di diverse. 800 24 00 24, chiedo veramente, sinceramente, perdono a Giuseppe da Roma, che credo che sia 23 minuti in attesa. Giuseppe? Buongiorno Roberta, come stai? Sono scusata, grazie. Dal tuo tono sento di sì, allora sto bene, grazie Giuseppe. Hai detto sono sposata? Scusata. No, no, mi sono scusata della mia vita privata. Ah, no, ci mancherebbe, sì. No, è interessante, quindi va bene così. Niente, io volevo fare una riflessione su questa legge, questa proposta della legge che sicuramente era prevedibile che andava stralciata. È grave però che ci si senta in diritto e ci si permetta il lusso di fare queste proposte pensando di rappresentare il popolo italiano, ecco, questo è un pochettino grave, ma insomma l'importante è che sia stata stralciata la legge, parlo della... Sì, quella sul tetto, la cassa integrazione degli stranieri, sì sì. Sì, perché io sono, sarà che educo i miei bambini al non culto della bandiera, al non culto del nazionalismo, perché spero che i miei bambini diventino cittadini del mondo. Che si può anche, Giuseppe, avere il culto della bandiera, per carità, e amare la propria patria, ma non considerarla come una specie di feudo. Questa forma di amore, scusami, sì. Roberta, questa forma di amore che prevede comunque un attaccamento genera comunque una sorta di fondamentalismo quando poi si viene attaccati. Io sono per l'apertura totale, per l'apertura a 360 gradi. No, no, ti capisco, ma forse quando si è più sicuri di sé, del proprio essere, appartenere a un paese, a certe tradizioni, eccetera, che si è più anche tranquilli e aperti verso chi viene Roberta, da fuori. No, credimi, no. Il discorso sarebbe abbastanza vasto e forse non è questo. Mi rendo il conto, luogo. No. Si raggiunge la perfetta tranquillità, serenità e quiete interna quando sai di appartenere all'universo intero, non all'Italia, alla Germania, perché sennò crei dei confini mentali, crei degli oggetti mentali che ti porteranno poi purtroppo a pensare di essere un eroe perché difendi questi confini. È gravissimo questo. A me disturba quando cade un aereo e dicono 300 morti, di cui 14 italiani. Mi disturba tantissimo perché non capisco per quale motivo dovrei essere più addolorato. No, no, ma in questo caso ti credo di poterti spiegare perché, Giuseppe, poi ti convincerà o meno la mia spiegazione, è perché, e ovviamente quando si sente di un aereo che cade all'estero, noi che informiamo, soprattutto noi stessi, i cittadini italiani, eccetera, si ha un po' l'ansia, no? Di sapere, oddio, ma mio figlio, la mia ragazza erano lì, erano all'estero, erano in un volo aereo, ci sarà successo qualcosa. Questo non mi sembra nazionalismo. La gente si è sentita, peccato che l'italiano è stato ferito nell'attentato del treno in Russia, pensando o dimenticando che sono morti 30 persone. No, questo sicuramente. Però c'è stato un ferito italiano, per cui tutti i telegiornali, uno degli c'è stato un italiano ferito, non grave, peraltro, fortunatamente. Comunque, detto questo, sì. No, volevo fare una questione invece sulla legge del fumo. Allora, io faccio sempre una proposta della Lega anche questa. Vuoi dire che sei un fumatore tu, Giuseppe? Ma guarda caso, ecco. Comunque, faccio circa 150-160 mila chilometri l'anno in macchina. Fumo in macchina. Bravo. E posso dire che probabilmente il fumo salva la vita, non Giovanni, Giuseppe, non diciamo queste cose per favore, che io da quando ero bambina che faccio la lotta contro il fumo, eh. Adesso io ti voglio bene, divento fumina in questo momento. Fumare, hai smesso? Fare quel che voglio. E ti dico comunque che il fumo, per chi viaggia molto, a volte distrae e lascia passare quel momento di noia che potrebbe essere molto più pericoloso, perché i colpi di sonno vengono per noia. Senti, senti un po' di buona musica o la radio, Radio 24, no? Per non addormentarti. Certo. È vero. E comunque, ti fai una bella camera a gas col fumo, insomma. Voglio solamente che la gente rifletta su una cosa. La politica è una questione di consenso. E quando si dice facciamo una legge contro il fumo, ho già il consenso di tutti i non fumatori. Questo è evidente, no? Tutti i non fumatori. Ma se è una questione oggettivamente legata alla salute, fosse una roba di opinione, ognuno c'è la sua. Allora si dovrebbe vietare il fumo totale. Sarei abbastanza d'accordo. A New York la scorsa settimana l'hanno vietato anche in alcune abitazioni. Ma lo sai perché in America non fumano più? Perché i costi sociali enormi. No, perché la multinazionale. Per le cause alle multinazionali. Certo, quando vengono denunciate pagano 4-5 milioni di euro, di dollari per risarcimento danni per il tumore al polmone, hanno deciso questi signori, è meglio che l'America smette di fumare, andiamo in Afghanistan, gli diamo il burka e facciamo fumare le donne afghane piuttosto. Ma le povere donne afghane penso che abbiano altre priorità in questo momento. Cioè, adesso il discorso no, avanti. No, ho capito, quindi, stai facendo l'iperbole. Dico questo, non è vero, perché dovremmo anche togliere, perdonami che dico questa cosa, è una battuta, dovremmo non viaggiare più con la suocera in macchina perché è fonte di distrazione, ti posso garantire. Giuseppe, sì, si dice delle cose spiritose, magari uno si mette a ridere. Giuseppe, mi raccomando, adesso questa te la lascio passare, smetti il prima possibile di fumare. Grazie. Ti abbraccio, ti voglio bene, Roberto, ciao. Ciao Giuseppe. Monica D'Ascenzo, tu fumi? Dimmi no. No, non fumo e anch'io faccio la campagna. Perché ho subito tanto fumo da quando ero bambina fino a allora scuola, sul lavoro, dappertutto. Siamo sulla stessa barca. No, la cosa più assurda che io ho visto riguardo al divieto del fumo è stata in Giappone, a Tokyo, perché fanno delle strisce fuori per strada, come nei parcheggi, la striscia bianca. Delimitanti, quindi. Esatto, e tu puoi fumare soltanto all'interno di quella striscia bianca. Bene. E non è che ci sono dei pareti, muri, delle cose. No. Però tu puoi fumare fuori dalle strisce bianche, ti fanno la multa. È un modo per dirti, d'accordo, puoi fumare, ma attenzione che non siamo molto d'accordo. E allora c'è José da Pavia, anche tu con grande pazienza. Grazie. José. Sì, buongiorno. Buongiorno, José. Sono José Castro dall'Ecuador. Dall'Ecuador, che però sei in Italia, sì, non stai chiamando dall'Ecuador, no? Sì, sono qui in Italia, sì, da 10 anni. Uh-huh. Io dico, mi trovo veramente bene qui, no? Mi fa piacere. Indipendentemente da quello che si sente, da quello che dicono questi personaggi politici della Lega Nord. Però io dico una provocazione. Secondo le statistiche credo siamo 3 milioni, 4 milioni di stranieri in Italia. Sì. Se si facesse tutte queste leggi che vuole imporre la Lega, e se li facessimo tutti noi nell'estero, nel mondo, quanti italiani dovrebbero rimpatriare? Senza contare i figli che sono nati Credo che non basterebbe l'Italia per ospitare tutti, solo una provocazione che veramente dà fastidio alla Lega quando parla con questo tono. Posso chiederti, Giuseppe, che lavoro fai? Io ho un'impresa di pulizie. È un'impresa di pulizie, la gestisci tu proprio, sei un piccolo imprenditore quindi. Sì, sono un piccolo imprenditore, mia moglie è ingegnere. È italiana o ecuadoregna? No, è straniera. Guardi, la fortuna che abbiamo avuto è che lei con molto sacrificio ha fatto tradurre tutti i documenti e l'ho fatto rivalidare qua. Lavora nel suo campo. Bene, è andata bene. Io sono dell'idea che il razzismo non esista, ne esiste l'ignoranza e la stupidità. Quindi se uno o è razzista, o ignorante o è stupido. Quindi, Giuseppe, ti senti orgogliosamente ecuadoriano, italiano? Che cosa ti senti in questo momento? Io potrei vivere ovunque, guardi. Potrei vivere ovunque perché io rispetto tutte le cose, le leggi, le persone, anche se non sono leggi comunque si deve rispettare il prossimo. Certo. Se io vado a casa sua, non è che devo fare quello che io voglio. E questo è il mio concetto. Io devo rispettare dove sono. E credo che questo sia sicuramente un caposaldo dell'integrazione, non solo certo, l'accoglienza da parte di chi accoglie, ma anche la disponibilità di chi arriva a rispettare le regole regolano la convivenza civile. Insomma. Anche chi ospita... deve parlare subito in chiaro, no? E quindi sono le regole, ci sono le regole per essere rispettate. Certo. Giuseppe, io ti ringrazio. Ti ringrazio molto. Se non mi trovo bene, nessuno mi obbliga a essere qua. No. Se mi trovo bene, sono qua. Beh. Grazie, Giuseppe. Resta sempre con noi in Italia. E il numero verde è sempre 800 24 0024. Tra poco c'è Massimo da Monza, Osvaldo da Milano, eccetera, eccetera, con il nostro Giorgio De Luca che è lì che prende questi telefoni roventi. Povero Giorgio, lo vedo ancora molto preso. Dopo diamo ancora spazio alle telefonate. Monica D'Ascenzo, sai qual è, leggevo oggi, il lavoro più richiesto in Italia? Vediamo un po' se tu da giornalista finanziaria hai un'intuizione, un po' a pensare. Ma io so che i lavori più richiesti in questo momento sono quelli relativi alla sanità, quindi immagino infermieri. Sì, allora, brava, ma l'hai letto? Il lavoro più richiesto, visto stamattina, è l'infermiere, ma metà dei posti restano vacanti, anche questo. Io direi ci sono tanti lavori strapagati a volte un po' eccessivamente anche nel nostro paese. Un mestiere come questo, che effettivamente... pesante, non sempre gradevole, diciamo, insomma, che bisogna farlo davvero con un grande senso di sacrificio, di dedizione agli altri, così. Se li pagassero forse un po' di più anche, no, gli infermieri. Negli Stati Uniti sta proprio avvenendo questo, tutte le professioni della sanità, dall'infermiere, ma io parlo anche da quelli, non dei medici, anche dei livelli intermedi, sono quelli che hanno il salario in controtendenza, è cresciuto nell'ultimo anno e mezzo in confronto invece a tutti gli altri salari che sono andati scendendo, proprio perché c'è una richiesta molto forte. Mi sembra giusto, no? Mi sembra esatto. Che sia un lavoro, ecco, diciamo, ci si diverte meno che in altri. Allora, prima della viabilità, come mi avvisa Paolo Corleoni, c'è Osvaldo, no, Massimo che aspetta da di più, Massimo da Monza. Massimo, buongiorno. Eccoci finalmente, buongiorno, sì, a te. Grazie, io volevo dire che invece sono perfettamente d'accordo con la proposta dell'onorevole Fugatti, che può apparire apparentemente discriminatoria. Quella della cassa integrazione, il tetto alla cassa integrazione, certo, che abbiamo detto è stato stralciato, ma tu comunque volevi ritornare su questo dicendo che sei d'accordo. Non ci sono più le mezze stagioni. Eccoci qua, abbiamo circa, cosa saranno, gli 11 minuti, poco meno per rimanere ancora insieme, Roberta Giordano con voi per commentare sempre libertà e fatti della settimana. Mia opinionista estemporanea di oggi è giornalista del Sole 24 Ore, Monica D'Ascenzo, che ha scritto insieme a Giada Vercelli Donne sull'orlo di una crisi economica, pubblicato da Rizzoli. Massimo di Monza, stavi dicendo che eri d'accordo invece con quella proposta, che comunque è stata eliminata oggi, della Lega, di porre un tetto alla cassa integrazione dei cittadini stranieri. Perfettamente d'accordo, perché? In quanto la discriminazione principale che avviene in Italia nel campo degli ammortizzatori sociali non è quello tra gli extracomunitari e gli italiani, ma è anche all'interno degli italiani. Le faccio un esempio molto rapido. Se un con le leggi attuali praticamente, se un ingegnere italiano, quindi laureato, è assunto con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, perde il posto di lavoro, non spetta la cassa integrazione e non spetta quasi niente di ammortizzatori sociali. Se invece perde il posto di lavoro un operaio marocchino analfabeta, assunto però a tempo indeterminato in una fabbrica della grande industria, gli spettano 6 mesi, poi 8 mesi, beh, lì è questione di settori, sì, più proroghe, che altro. Ecco, quindi la discriminazione esiste già tra gli italiani. Queste leggi apparentemente razziste sono in perfetta coincidenza della legge Bossi-Fini, che dice che lo straniero è in Italia per lavorare. Quando cessa il contratto di lavoro, lo straniero ha 6 mesi di tempo per prendersi, per trovarsi un altro lavoro, altrimenti deve tornare a casa. Queste leggi sono un po' in tutto il mondo, ci sono in Svizzera, ci sono nei paesi africani da dove provengono questi signori, ci sono un po' ovunque, quindi non vedo dove sta il razzismo. Se l'Italia è ancora una nazione, cosa di cui dubito molto, prima dovrebbe pensare ai suoi figli, cioè agli italiani, e poi agli altri. Il ministro Sacconi non può andare in giro a dire che non lasceremo indietro nessuno nella crisi e poi gli ammortizzatori sociali sixtantibus rebus toccano soltanto al 20% dei lavoratori. Però Massimo, scusami, allora questi stessi lavoratori, questi che appunto sono dentro le aziende, le fabbriche eccetera, extracomunitari, allora devono pagare anche la metà dei contributi, la metà delle tasse eccetera eccetera, se a loro spetta solo la metà della cassa integrazione. D'accordo, ma gli italiani quando vanno all'estero le tasse le pagano tutte quelle che gli spettano, non è una questione di pagare la metà o di pagare un quarto. Allora dovrebbero pagarle gli italiani un quarto, perché se io sono un lavoratore della piccola industria e perdo il posto di lavoro, non vedo perché devo finanziare la cassa integrazione, che a me non spetterà mai. Massimo, scusa, sentiamo, interessa cosa ne pensa Monica da Scienzo. Monica, che... Ma io non la voglio mettere, non mettiamola sul è giusto o è sbagliato, non è costituzionale. Quindi questo mi sembra già, lei faceva l'esempio del laureato ingegnere con contratto di collaborazione, impiegato o operaio italiano, metto, no, lasciamo da parte lo straniero, italiano, l'operaio che fa i turni, magari ha fatto la terza media. Io le ricordo che la Costituzione italiana non fa differenza di sesso, di ceto, di istruzione e di religione. Allora stiamo attenti, perché altrimenti il laureato, se continuiamo su questa strada, il laureato allora ha più diritto alla cassa integrazione di uno che ha fatto la terza media? E in base a cosa? Chi lo decide? Guardi che lei non ha capito, qui la discriminazione esiste già ed esiste da decenni, perché l'Italia non ha fatto ancora la riforma degli ammortizzatori sociali. Lei ha ragione a dire che questo provvedimento sarebbe discriminatorio, ma la discriminazione, io le ripeto, esiste già adesso tra italiani e italiani, tra italiani e stranieri, e anche tra stranieri e stranieri, perché questa cosa può capitare sia a uno straniero che a un italiano. Uno straniero, se è nella piccola industria e perde il posto di lavoro, perde il posto di lavoro, punto, e non gli spetta niente. Se uno straniero nella grande industria perde il posto di lavoro, gli spettano mesi e mesi e mesi di cassa integrazione. Quindi Massimo, tra i settori, quindi la questione non è l'emendamento della Lega. La Costituzione, scusi, si deve occupare delle leggi che sono già adesso anticostituzionali. Ha capito? Allora la questione non è l'emendamento della Lega, che mettiamo da parte. La questione è la flessibilità del lavoro, i contratti di collaborazione, che sono andati a sostituire altri tipi di contratti. Allora è la precarietà, la precarizzazione del lavoro che si è avuta in questi anni. È un altro discorso, lo possiamo affrontare. No, lo possiamo. I termini della questione, non è un altro discorso. Io sto parlando di leggi prettamente discriminatorie che sono già in vigore in questa Repubblica. E nessuno ci fa caso, soltanto quando si tocca apparentemente lo straniero, apparentemente, ripeto. Diciamo forse, Massimo, ecco, adesso purtroppo dobbiamo salutarci, che forse è una questione non tanto allora tra italiani e extracomunitari, ma tra appunto il mondo del lavoro, che è molto cambiato in Italia come all'estero, ma forse all'estero poi ci sono delle caratteristiche diverse, per cui bisognerebbe appunto, come si sta dicendo da tempo, cercare di salvaguardare un po' tutti i lavoratori e non appunto con discriminazioni. Adesso però è il momento in cui c'è, oltre alle notizie della settimana, anche una parola, un termine, qualcosa della settimana che trovo abbia connotato in modo particolare i fatti di questi giorni. Vi ricordo che domani a Storielle, se avete voglia ancora di risentirmi, dalle 19 alle 19:30 avrò Mara Maionchi, che è una grande donna della discografia italiana, che è arrivata al successo di massa con questa trasmissione talent show X Factor, ed è una che ama dire spesso e volentieri delle parolacce, anche se lo fa in modo abbastanza leggero. Avete sentito Fini che ultimamente, insomma, a proposito proprio di razzismo, ha detto chi è razzista è uno ST eccetera eccetera. Allora, si sdoganano le parole, le parolacce anche nella politica, nella tua vita? Cioè, cosa ne pensa Valeria della Valle, cara Valeria? Linguista della Sapienza di Roma, ovviamente. Cara Valeria, abbiamo qui 24-32 secondi, credo, il solito. Bene, sempre in velocità anche sulle parolacce. No, allora, abbiamo qualcosa di più. Dai. Le parolacce tradizionalmente dovrebbero essere molto trasgressive, quindi fatte apposta per colpire, per offendere, per far male. E certo, quando poi vengono pronunciate tante volte finiscono per diventare quasi delle banalità. In fondo anche quella che tu hai ricordato, ma il clamore suscitato dalla parolaccia usata da Fini, pur se in un contesto molto particolare, poi alla fine il clamore è durato molto poco, mi pare. Sì, sì. E del resto, se l'andassimo a cercare sul vocabolario, quella parolaccia che tu hai ricordato, troveremmo che cosa? Non sto per questione di tempo a cercarla, ma insomma nei vocabolari c'è scritto che oramai il senso si è molto diluito anche di quella parolaccia, che tra l'altro ha un'origine niente meno che longobarda, niente poco dire di meno. Sterco. Finisco solo con una parola per sì. dire che io non ho niente di particolare contro le parolacce, però molto spesso mi sembrano oramai una forma di conformismo, perché insomma troppo usate, e inviterei tutti a essere anticonformisti, quindi a non usarle. Mi associo completamente a Valeria della Valle, più o meno come sempre. Grazie Valeria. Grazie. E grazie, buona continuazione a te. Intanto, mentre chiudo, chiedo a Monica D'Ascenzo, che è stata mia ospite opinionista estemporanea di oggi, una conclusione, una tua massima, una morale, un qualcosa che ti viene a dire. Non sulle parolacce, su quello che vuoi, su quello che vuoi. Io parolaccia no, per il momento lasciamo perdere parolacce. Prego. Mi ricollegherei al tema del libro che ho scritto con Giada Vercelli, Donne sull'ordine così. In Italia in questo momento c'è molta attenzione sul tema delle donne, forse perché, come ti dicevo, stanno reggendo meglio in alcuni casi alla crisi, e quindi fanno un po' da sostegno e da tenuta alla recessione che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando. Vorrei ricordare che esistono dei disegni di legge, uno per detrazione sulle badanti, le colf e le babysitter, che mi sembra molto interessante perché può liberare delle forze lavoro delle donne che possono uscire di casa perché non hanno più impegni in casa. Uno molto particolare sulla paternità, il congedo di paternità, che esiste già, esiste, ed è volontario, sappiatelo uomini, sappiatelo. Ma è poco usato. Allora Alessia Mosca, l'onorevole Alessia Mosca, ha proposto 4 giorni obbligatori dopo la nascita del bambino. Le mie amiche hanno detto solo 4. Quindi... E su questa domanda, che ci sembra retorica, ci salutiamo. Grazie Monica D'Ascenzo, Roberta Giordano. Naturalmente vi auguro come sempre sereni orizzonti.